de neuf qui vient. Tu qui? Perché anche forse un quei cos che non dice un varda, questa qui è la roba che nessuno la seva, una roba nuova. Proprio questa, che le tende Carlo Cude. Non sa ricordo un più di nostra vecchia, ed anche di quei che adesso vegneranno, sì, di quei che in chi adesso sa ricorderemo più. Perché altra gente, leggiamo tre che arriva, altra gente la nasce. Mi, Coelet, sustai un re, un sciur, e ho vursù ravanà con tel giudizi più quel che è su tal ciel, più quel che ga succeda. E le quest, pensate ben, proprio un gran mestè del menga. Che il Signor lo vursu da gaiom, in sci che s'amasse della fatica de pensa xu. I rob che vegna fai, mi, io vis propi tuc, ed è lì, de che surriva aves un quei cos, u capì che gettus cos, senza significa, tu fia trai via. Come dis un num, sapeno cavassando una rava, stanno lì meno al turon, dai. Mi pensevi del chi? De tu quei che ganguerna prima di me, mi son quel che certamente al gavi più se giudisse. Al me cervella, cugnusi tanti rob, la resuna come sa dev. Certo, sì. Al giudici, la ragione, come anche la vesfera de cu, la materia, il ves look. Mi, ursu cugnus, mi, e nessun altro al me posto, u fai tus coste per me. E ho capì che anche questa le fia trai via, perché tanto giudici le tanta fatica, e più sei rotti a sé. Più se ta se destina a patì. E allora un bel dì ma sun dì. Venia nan, venia chi. Veri proprio metterti alla prova con la contentessa. Dai, prova se già quel che ti piace. Che tu scoschi. Ma anche questa le vanità. Anche questa le fiatra in via. E allora del rit udisci. È una roba de mat e della contentessa o di sé che la serva. E ursu da galura soddisfazione alla mia carna, cutel vine o prua a viv un giudici e alla stessa maniera col vesfera de cu in sci come magiri bal, fin tante savese che al convegne con nome il faga per tu quel che gatuca de viv chi su che la terra chi. E allora ma son butan del laura, ovvio l'invenzion, lauri. Sì, o laura, o tira su ca, o su menal fermento, al mergon, pian de pume, de mugnac, la vid, mio pianta, la vid. O fai cres di giardin che eren bellissimi, e l'acqua lumena, du che mai prima le va arrivà. Suta de mi. Govi un viamen d'oven che laureva per me e ho fai si tante chi da ne che son divental più se sciurre, più se forte di quei che prima di me che stai e tanti amis govi e gente che di me parleva ben me govi è il mei che un uomo al peven della sua vita e tu chi rocchi cutel me giudici, cul me fa funzionare il cervell. Mi, ma son scudu tu ci petit, tu quel che vorevi le stai al me e tu ci soddisfacion gan vu una ca grandincini del me cœur. Quest, quel che govud della vita, mi. E poi, alla fin della fera. Tri-tri napula pic. Ciapa, tabacca, mena. Bel momento. Ma son guarda in man, in turno che fai, e quanta fatica per veghi tu schirent. E udite il chi, desta se content, vanità che serve a niente. Tu fiatra via, no, credivi alter, no, penis in guadagni. E allora ma son domandà, allora vorrei proprio sapesse che cazzo il farà che il cristuli del mefier. Quel che se sempre fai. Cresa, si impinisce un calù, e per me era il crepa. E intanto magari le monde fanno di altre de fie, perché la razza la va avanti. E allora mi sono incurgiù che il guadagno dell'uomo, che il gaggiudissi, su quel che le luc, le cume del dì in ver la notte. Gli adisi no mi chirocchi, chirocchi gli adisi di liber che mio le giù, e liber al dis, al giudicius al vadris per la sua stra, al parlafius le tu sbirulent, che è una bella differenza, no a mi? Pensi, sì vera, la differenza la è, però alla fin fin, frepentus due. Al Paolino il dis, al Sudamenam, al Turon, è la terra trema, è la terra trema, è la mia mamma, e Fanchi, è il mio papà, è Laura, è il mio figlio, è il papà chi, è il Gormito, è tutti chi rocchi, è la mia mieva, ma fa mal chi, il mio sorgente, tutti i problema. Al problema è che sarà in tus desmentega. Mi, vi alter, e il mio padre, la mia mamma, la mia mia, il mio fio, quel scemo, quell'intelligente, al giudicius come quel che le luc, quel non ramenagava. Tutti alla stessa maniera, che alla stessa maniera de un tus muri. E allora, un bel momento, la mia vino di la vita. Mi, ma vi no di la vita, perché di quel che fem, di tu quel che fem, mi, ma piace poco o niente, perché ogni roba le duma vanità, le duma travia il fià, d'aria alla lingua, faccia pari alla lingua, tanta il serva niente. Tu quel che fai, a me vengo i nodi, sì, perché? Perché un dito a rula sal, a un alter dopo di me. E allora mi domandi, al gavare giudici, al farai lo giusto, o sarà un barlofuso, un lupo, un canela, più che il capisa niente, più che il parra, disi, no, vieni, no, no, no. Derifo de raf. Al venirà un quevi un altro in penisa stomic. E anche questo però, anche quel che pensi, anche i rocchi lì, le tue vanità, ti rocchi serve niente. Perché chi la lavora e la fa i beni su rob, tu che la saghi a un altro, che per veghi la fai un bel niente. E allora mi disi che guadagna che per tu l'infesh che vene il ga. Tuc i sudi, tuc i medi, in nient'alter che dispiase, rogne, racul, tribulacion, nanca la not riesi a vesquiet, dormi no la not. E anche quest però, le fiatra e via, perché che nessun che ti interessa niente. Perché cambia niente. E allora, mi, per quel po' che vari, disi, mangià, bev, gudessela, come diceva Gigino Matt, got tanto e spend poco. Le queste de un fa, perché anche al gozze con me, che capisci poco, al deve venire di man del signor. Almeno in sci pensi, lui che il conceda per il piacere meritale, il giudizio, la ragione, la contentezza. In sci forse pensi, in sci dicen, ma anche a quest, se guardo un ben, alle fia tra i via. E che è anche un'altra roba. Ho lavorato, ho fatto tante robe, ho fatto i fiori, ho conosciuto tanta gente e ho leggiù tantissimo. Anzi, mi ho leggiù libero. Al liber e liber al dies. Dicirò per summent, tatent, è un temper nas, è un temper per scribia, un temper sumenà e per strepare radis, temper massà e temper medegà, un temp per sbaggiù. È un tempo per trempe, tempo di caragna e tempo di stupidera, un tempo per cacciasse e un per balà, tempo di traissas e tempo della sai tu che in, un tempo per braccia su e un tempo per dire prega più niente, stunci per me, e un tempo per cercare, un tempo per perdere quel che si trova. È un temper strange e temper la santà, un temper strascià, un temper così, e un temper da sé e temper slapetà, un temper pure sbene e vun per maledì, ten de guerra, de ladr, de assassin e ten de pas per chi lavora. In tutto il tempo mi dici se che il guadagno vun ad assin de fa. E per questo fai ammenta tutto il gran mestè che il signor lagadai a iom in sci che gabbien un quei cos de pu de fa. Lui, sì, lui, che tu scos, credi, l'abbia fai bel. Ma in del no scur è le quest che na frega. In del no scur, scute ben, quella la cascia dentro al sentimento dell'eterna. Se che farem, do che andarem, se che è dopo la morte, al sentimento dell'eterna. Beh sì, però la mescia manicard, perché sì, al sentimento dell'eterna senza però. Fan capì se che de dre all'opera sua. Ti, padre senza nome, ti, padre senza nome, te mi hai messo al mondo e te vursù che il fidesi sci dall'inizio alla fine senza fan capì niente. E mi sui di domandare perché? Perché capisci niente? E si arriva alla conclusione che niente mai per lui che gode della vita cercate di fare lo giusto. Perché mi riconosci, ammetti, che tu quel che il signor Alfal cambia no, niente cavaghe, niente giuntac. Sono arrivato a pensare che il signor Alfa Chirocchi sci che non la rispetta. Niente! Le sbaglia anche questo. Quel che è. Già mule stai. Domande come in che il signor al gavadre a ti quel che le giamu passà. E poi anche, ho anche visto. Grazie, padre, senza nome. Ho anche visto che chi venì sotto al su, al posto di rob giusta che rob fai malamente. al posto della giustizia, tanti volte, al vence al vesgram, la cattiveria, la gramità, l'ignoranza. E io pensavo, mi dritto, venirà il dì che il Signore giudicherà l'uomo giusto e il demonio, che prima o dopo arriva il suo tempo per tutti, ti smere, e che sarà un giudizio, e riguarda quel che fa noi, udisci, al Signore non metta la prova. Al Signore non metta la prova, e sì che capisci che sei di bicin, mul, burin, ni mai, che sei vesti, come vesti sei? Destinai stessi, per un nim, per al bo, un medesim fiaghe per tuc, te ne non mu capì, balde fragili quel che dice che l'uomo è ancora più sa che una bestia. Ti slavem, amuris da marci, a fai vermini della palta, vem, in della fossa, lì che finisce un tuc. Ti scos venire dalla polvere e ti scos che finisci in scendere, carisda, che nient'altro che questo. Mi da sfida fatto vincere che è cos'altro di questo. Ti, che ti guarda e ti dice che sono mat, ti da sé se il fiato d'un uomo al vaso in alto, in ciel, e quel della bestia si impalta per terra, dal seti. No, che niente mai per nun che god di quel che si tu fa, perché quel è il nostro destino. Per un forse vedere un cugnus, quel che succede domani è impossibile, se non destinare di niente, a sapere niente. E per, allora, ho messo anche in conto ci roba storca di chi. Di lì, io avevo un chi, vusen sgarissen, quel che non può in più, e nessuno che gli consola. E gli altri ridono, nessuno ti dà, esci, tanto per fare qualcosa, se fa bene. Allora mi dissi, è morto. Penso, ma è morto. Sì, lur. Lur in quel che sta a me, me che num, che sei tu un viv. Ma me io mu sta in quel che de num, ed è quel che fen anno, non mu vis niente. Quei che in mai nascista a me! Ascolta questa! Vieni a esci per lui, se serena con fratello, da nessuno, esci per lui. E tu, altri smetta mai di lavorare, di fa fatica. Da ne, lavora, costruisce, vai, vai. Vabbè, non ho mai a sé. Tanto il dis. Dice ferma e gli dice, ma per chi lei che mi asceppi la scena? La vengono un'idea giusta della vita. Da domandas che la roba chi, che la roba più se facile di domandas. E le vera, e le garisone. Però è uscito avanti, è uscito andando avanti. No, che si ferma, e dice, vabbè, adesso metti remi in barca, cerchi di lui avanti stesso. In due, semplice, verso la morte, la roba più seria. Tornando al discorso di prima, certe volte mi perdi, ma è sempre verso in due che venisci per lui. I rob vengono in fiora più se ben. Riesce in me, anche più se guadagni. Metta che borlo in giù, vuoi in pelalter. Quel che l'insci per lui invece è un po' rom. Se scapisce, borlo giù, anche nessuno che dà una mano per aiutare. Oltre a questo, metta che due vanno letti insieme, per ne scaldasse, un sul se che fa, al continente espul. E metta che vuoi essere cassato in del culo e per il cuore, se sei in due che non un passamano. Logic, ma è un giù not pover, ma svic, svelto, che vi insur, ma vegge sdrenà, che le buon note ascolta i consigli che dà la vita. E quel che leggi, la disinomi, le scrivi sul liber, è il liber che mi vuole giù. Quella leva pover, un altro esempio, arrivava a Cunghel, al mangiava pane in bus. Te? E diventa un sciur. Gli è tutti intorno adesso. Anche se la fugnà, imbrugnà, grattati per tutto. Giuri? Allora, vis mia, un via menga era di gente che la candeva tre, all'ader. E lui, detto quelli, leva il capatas. Leva più importante, più che il convinceva la gente. Leva più che al guideva la gente. Ma quelli che veniranno dopo, sta sicuro che dovranno si mutare per scontentare lui. Perché se ne ricorderanno anche più. E anche questa è la vanità. Alle fia tra i via. Occhio, nana quel che ti fa. Quante vedenti in della casa del Signore, va visi in prescolta, al barpiscente tutti offerte di sti quattro pisquan. Che quel che indre fa la capisce no. E fanno il fughetto quanto parlet. Quieta il cuore, perché ricordes che ti, da se ti intera, da se chi, da se non, da se chi, sbassi al. Per questo, occhio i parole che ti dis, nan, perché di tante preoccupazioni vengono di pensè, e dal cicciarade per niente al discorso di Luc. E di no di rocche mantegni per le dura. Fa invece quel che te di, fal, che al contrario alle mei parla no. Per me te sno, te mettes dalla parte del torto, e per due di che te sbaglia. Ciao, no. E questo perché il Signore, Signore, anche gli altri, e cambiano di dì, va a capirla, quelli mi l'arrangi per ora. Perché ricordi ben, caro il mio figlio, tutti delusione nasce di pensieri e di parole. E cerca dunque di rispettarti e del Signore insieme, qualche tribù per i danè, e dei danè che hanno mai a sé, fin di quinta al guadagno un fixec. Anche questa è la vanità. Più sei danè che taghè. E più se cresce, ne suscetta, sugata al sangue, ciucen, suscen. Anche l'urga non mai a sé, e dunque è il tuo guadagno. Dimmel. E un'altra brutta roba, questa, di chi perché. Venne l'ora, tutta la sua grama vita, e poi, di un bot, per un quei accidente, ha capito niente, deculo. E niente al galassi su fiore. I sci come levano sui biut, i sci il crepa. Dicevi alter, se che gli ha servì, laura, memmul, e trebulà, e mangiasse al fidi. Niente. E allora, mi credi che questi grandi esempi davanti a Jeuc, bisogna arrivare a una conclusione. E la conclusione è dopo questa. Sei con me che le mei mangia, bev, god, di tutto quel che riesce un fa in sti quater di quater. Quater, che sta in chi? Perché questa è il nostro destino. Un uomo che il Signore il gadai, de viv ben, al deva god di tutto quel che il ga, che anche questa è un regalo. Vinco il fanci, a stalino a ciapas la briga, tutti rocche finissero in niente. Allora deve essere contento, contento quel che è, contento quel che il dà. Se gan quel cos. La signor, amadinci, ciapa chi, dai. Da ne un urpia se alta manca niente, ciapi, chi? E quella Gatuce. Lui sì che non manca niente. E si agoda no. Alle sempre lì rapenti in verso. Le lì che il canta al demi-demi. Questa chi è la vanità? Questa chi è il peccato grosso? al gavest cent'fir, al vest cent'an. Se riesse a nostro sacramento, avesse contente quel che il gas, il trova minga le soddisfazioni, allora mi dice, cazzo, me una morte, me quel che le mai nasce, che almeno l'avevi visto la luce, la notte la quarcia il nome, mai l'ha visto il suo, niente l'ha conosciuto, per mi dice che il suo riposale c'è in vol mei di quell'alter, che le drevive, e il pena, sì, la seme il vino, la seme il vino. Scappa santi in eterna senza gode quel che il ga tus de lui e quell'alter che le mai nasce. Saturano in del medesim sit. In del medesim sit.